nessuno sul 10 per una prova di controllo. Canale 10. Prova. Prova canale 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno per un controllino di una radio. Dispiace per chi è tifoso della propria squadra. Ok, è così, a te il cambio. Ok, cioè, dai, che sono anche insieme ad altre persone, che sono parenti, che stiamo guardando qua. Però è una vergogna, è veramente una vergogna, la Juve. Sta perdendo 3-0, come niente fosse. Boh, non ha fatto un tiro in porta, una vergogna. Boh, ciao Francesco, alle prossime, dai, un altro momento, adesso non posso stare al baracchino perché c'è gente a casa, dai. E ok, vabbè, allora posso praticamente di serata, allora con gli amici tuoi sentiamo in altre occasioni, diciamo, più libere, dai, buon fine domenica, allora, e saluto cordiali anche ai tuoi amici, ok?